La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Signore mio, dacci un santo, un artista, Padre eterno, che vinca la morte, oltre la fatica e la sorte, allungare la vista oltre le porte, per vedere la luna e pure Marte. Signore mio, dacci un parere per quando ci vogliono interrogare, in tempo di pace e di sonno, che ci faccia star bene per continuare, in tempo di guerra magari a campare. Se veramente Dio esisti, se sei quello dei giorni tristi oppure quello degli inni alla gioia, fa che sia vita la nostra, ma vita senza la noia. Andrea Spezzacatena aveva 15 anni, era un ragazzino davvero intelligente, amava studiare, leggeva tantissimo, era capace di sapere e di non vergognarsi d'essere bravo a scuola. Andrea andava al liceo scientifico Cavour di Roma. Quella che vi raccontiamo è una storia di mancato merito, di isolamento, di solitudine e di poca protezione da parte degli adulti all'interno del corpo scolastico. Andrea si è suicidato 2 anni fa, lo ricorderete tutti come il ragazzo dai pantaloni rosa. Fu la madre, a pochi giorni dal funerale, a prendere in mano la situazione e cominciare un lungo cammino. Andò in TV a parlare. Comunque, ove fosse stato un omosessuale, sono certa che non avrebbe avuto remore nel dirmelo, in quanto io e mio marito abbiamo cercato di impostare l'educazione dei nostri figli sul rispetto di alcuni valori fondamentali, tra cui il rispetto dei principi di libertà e di tolleranza. Lo hanno crocifisso come Gesù, ha detto la mamma davanti alla bara. Ma oggi, domani, non sarà importante se Andrea fosse o non fosse omosessuale. Importerà che tutti noi impariamo che la superficialità, l'ignoranza e i pregiudizi sono una tortura quotidiana per i 100, 1000 Andrea, che ogni giorno sono soffocati dall'intolleranza. Il ragazzo dai pantaloni rosa è soltanto la manipolazione mediatica di una cattiveria, se vogliamo, posta in essere da un ragazzino che si è inventato quella pagina, perché in effetti il ragazzo dei pantaloni rosa non esiste, per cui assolutamente sì, c'è stata una da parte del mass media un accanimento anche della vicenda nostra, che è una vicenda familiare, un dolore familiare, è stato fatto poi una vicenda mediatica, ma questo perché dietro al nostro dolore si sono attaccate anche le organizzazioni pro gay, insomma c'è stato una storchiatura, ecco, della notizia, che non era tanto finalizzata a dare risalto a una data tematica, quanto è piuttosto ad un'altra, come se l'omofobia, cioè come se la notizia c'era ed era valida soltanto se legata all'omofobia. Questo lei l'ha detto da subito, e no, questo è il nodo principale, perché di fatto Andrea è stato vittima di un isolamento, di atti di bullismo esasperati, soprattutto perché era una persona che meritava, una persona di grande intelligenza, quindi escluso. E poi, insomma, mio figlio, io lo ripeterò fino alla fine, non è omosessuale. Non che l'omosessualità eventualmente di mio figlio fosse stato un problema quanto all'accettazione in famiglia, a casa, assolutamente no. Sono stata anche additata di aver io stessa manipolata la notizia per avere, diciamo, i riflettori puntati addosso, volendo far passare mio figlio per quello che non era. E in realtà così non è, perché in sostanza quello che io ripeto sempre non è l'omosessualità il problema. Il problema diventa il pregiudizio. Allora, essendo il pregiudizio un problema, il pregiudizio può toccare chiunque, anche chi non è omosessuale. Mio figlio non lo era, però è stato tacciato come tale. Ed è bastato poco, è bastato lo smalto sulle unghie, una parrucca messa a carnevale. Cioè, questo perché appunto viviamo una società che è essenzialmente bigotta. Questa è per come la vedo io, insomma. La cosa che a me sorprese subito fu la dignità e anche la bellezza con cui, proprio il volto della tolleranza con cui lei cercò anche di dire queste cose da subito, perché per lei il punto era chiaro subito. Ma attorno cosa ha trovato proprio in quegli istanti? La strumentalizzazione. La strumentalizzazione della notizia, da parte della stampa, non solo della stampa, anche magari di qualche, torno a ripetere, delle associazioni pro gay, c'è stato la strumentalizzazione. Il dolore, come se passava il dolore della famiglia, la tragedia di un ragazzo di poco più di 15 anni che si era levato la vita, questo come se si stava passando in secondo piano. Faceva notizia il fatto che un gay, che era un ragazzino, un adolescente gay, si era suicidato. Quindi diventava un po' il simbolo di qualcos'altro e in qualche modo voi venivate quasi estromessi da questa storia, diventava qualcosa di più grande anche del vostro dolore. E questa intervista io l'ho pensata anche perché lei potesse raccontare chi era suo figlio, chi era Andrea, visto da lei, insomma, perché questa, insomma, ognuno ha una visione delle persone amate personale, no? Per cui vorrei... Certo, indubbiamente. Mio figlio si caratterizzava per la sua enorme sensibilità, quella sensibilità che veramente diventa rosa, o ascrivibile al mondo femminile, no? Perché comunque la società di oggi vuole determinate caratteristiche in capo a determinati soggetti, per cui se donna sei sensibile, se uomo devi avere invece quei tratti della mascolinità che devono essere evidenziati, si evidenziano forse esclusivamente con la volgarità, no? Quindi se poni con un atteggiamento ineducato, quindi anche nel fraseggio ricorri spesso, insomma, delle parolacce, allora sei maschio. Invece, anche l'atteggiamento esebico deve essere considerato per forza espressione di una omosessualità. Andrea è un ragazzino come tanti, la bellezza di mio figlio stava appunto in tutta la sua sensibilità, un ragazzo molto colto, gli piaceva leggere, leggeva tantissimo, già a 9 anni si era voluto iscrivere appunto per avere la possibilità di aprirsi quanto più possibile la mente, si era voluto iscrivere in biblioteca, quindi era perché era curioso e pagava questa curiosità attraverso la conoscenza e il sapere. Questo faceva di lui veramente un lettore accanito, era in grado anche di iniziare a leggere un libro di 400 pagine e finirlo dopo 4-5 ore. Se era una lettura per lui interessante, se la divorava. Aveva una conoscenza della storia che forse neanche un adulto ha. Però evidentemente questo diventa anche questa espressione di diversità. La prima volta. Arriva il mattino e col mattino un angelo, e quell'angelo eri tu, Questa è la storia di Teresa Manes, una mamma, una donna bella, dai capelli scuri, gli occhi svegli. Teresa ha una prima volta devastante e corrisponde con la morte di Andrea, suo figlio. Andrea Spezzacatena lo conoscete tutti come il ragazzo dai pantaloni rosa, lo studente del liceo scientifico di Roma, Cavour, che si è tolto la vita a 15 anni. Una storia che ha turbato tutti, perché la storia di Andrea è un po' la storia di tutti noi, perché a 15 anni basta niente a spostare l'equilibrio e a trasformare le cose. In questa storia dolorosa c'è anche la cattiva parte fatta dal giornalismo, che ha assecondato un cliché, ignorando il dolore e le parole di una famiglia. Teresa Manes, la mamma di Andrea, però, è quella che alla fine resta a fare i conti con tutto quello che era Andrea e quello che poteva essere. Dietro al proprio suicidio di mio figlio ci stanno delle carenze gravi da parte degli adulti, ma anche del me compresa, che non ho saputo cogliere questo disagio. La scuola che forse è stata anche disattenta, perché ed è quello che io poi lamento, cioè all'interno delle scuole poi alla fine ci si limita soltanto ad osservare un ragazzo come si presenta nel suo percorso appunto didattico e scolastico, invece c'è quella parte, soprattutto quando si parla di preadolescenti e adolescenti, che è relativa appunto alle relazioni interpersonali, che dovrebbero essere guardate con una certa attenzione, e invece come cioè, ci fosse una certa osservazione da parte degli adulti anche a certe dinamiche di cui un'espressione è già evidente sono nelle espressioni adoperate, quindi come se non si desse più l'importanza che merita al linguaggio, eppure determinate parole sono offensive, costituiscono delle vere e proprie ingiurie, eppure vengono utilizzate come ormai una consuetudine nell'intercalare del linguaggio giovanile. E questo forse dovrebbe essere un attimo rivisto, cioè ripartire proprio da una rieducazione del linguaggio, che porta poi a chi ha parlato di povertà educativa, e quindi a una come dire, a una rivisitazione del tutto, partire forse proprio dall'ABC, perché si è lasciato troppo correre, forse perché a scuola c'è quel momento di incontro e confronto tra ragazzi, che dove appunto anche i ragazzi stessi si presentano con una veste differente da quelle che sono soliti tenere in casa, per cui noi genitori, anche se abbiamo fatto del nostro meglio per tirare su dei ragazzi diciamo educati, poi in effetti quando escono di casa quasi non li riconosciamo più, quindi non c'è neanche tanto la colpa del genitore, forse perché appunto questi nostri ragazzi come se per loro crescere significa staccarsi dal mondo degli adulti ed entrare in una visione che vede l'accentuazione della parte più brutta di quello che noi siamo in grado di trasmettere, no? E quindi ecco, forse in questo ci imitano, però nel ripetersi con atteggiamenti biechi o con espressioni forti. Non so, però questo su Andrea non avveniva. Lei in qualche modo era riuscita a passare un bel testimone a suo figlio, nel senso che Andrea queste però cose lei consideri che Andrea aveva avuto anche una forma mentis diciamo diversa dagli altri ragazzini. Lui dall'età della quarta elementare fino alla terza media fece un percorso di studi che lo legò alla scuola Puerorum della Cappella Sistina, per cui era proprio un altro ambiente che non è avvicinato paragonabile, è paragonabile a quello statale, non tanto per il docente che ne è espressione, perché comunque si tratta di personale laico che lavora all'interno, quanto forse anche per le dimensioni contenuti. Consideri che nel plesso scuola elementare e scuola media venivano contate una cinquantina di alunni, per cui non c'è neanche si esula proprio in quell'istituto dal concetto, sia solo dal concetto classe stalla, cioè lì la classe era composta da 7-8 ragazzini, quindi anche il numero forse può determinare una deficienza nell'intervento, perché un conto è avere e confrontarsi con 7-8 ragazzi, quindi anche l'attività di sorveglianza su un numero ridotto è cosa ben diversa che averne invece da seguire una trentina, e quindi anche probabilmente facile che certe dinamiche sfuggano, però è anche vero che tante volte invece c'è proprio la fretta di andare, e quindi non ci si vuole soffermare abbastanza e vedere. Senta, un'altra cosa che mi ha sorpreso, perché l'ho scoperta proprio per caso leggendo un comunicato che mi è arrivato via mail, è anche la sua partecipazione attiva, no? Oggi lei va in giro per le scuole, oggi lei parla ai ragazzi. La prima domanda che le faccio è se è ritornata dopo il suicidio di Andrea nella scuola, nel liceo scientifico Cavour di Andrea, a parlare, a incontrare i ragazzi. No, assolutamente, ne penso proprio di farlo, perché sarebbe un'espressione troppo forte per me, rivedere proprio i luoghi frequentati da mio figlio, non ce la farei proprio emotivamente, anche per altre ragioni, come pure ritornare, io ancora non avevo preso il diploma della scuola media inferiore, per avere, ecco, poi alla fine dopo ti ricordi che hai lasciato un po' in giro cose di tuo figlio che vuoi recuperare per riportare pezzi di tuo figlio a casa, no? Rientrare anche in quegli ambienti mi fa troppo male, francamente, lì dove non riesco a reggere emotivamente, allora evito, proprio per una mia necessità di salvaguardia emotiva, insomma. L'equilibrio che si recupera, che non potrà mai essere vicino a quello che una persona comune intende, insomma, deve essere comunque salvaguardato a tutti i costi, cioè, assolutamente. L'esperienza che faccio, che mi insegna poi, io non solo do, diciamo che è uno scambio, perché do ma anche prendo, perché in effetti andare nelle scuole è un intervento che faccio anche a fatica, perché ogni volta parlare di mio figlio è rivivere in sostanza la perdita di mio figlio, in effetti è pure strano il meccanismo che si innesca, perché parlare di lui significa riportarlo in vita, però quando parlo penso, e quando penso vedo, vedo la sua fine in sostanza, e quindi è un'esperienza dolorosa, però la racconto in maniera cruda, così per come si è posta a noi poi del resto, perché certe cose devono essere raccontate in maniera forte, perché devono rimanere impresse e devono scavare dentro, non soltanto dentro i cuori, ma proprio nelle teste, perché certi atteggiamenti devono insomma, io almeno ci provo, invito a che non si pongano più. Occhi neri, assoluti e sinceri, occhi amati e sognati, occhi desiderati, la bellezza è cattiva, la mia strada non ci arriva e il mio amore non sa perché. L'essere diventato un uomo dai sentimenti più profondi è il privilegio di coloro che hanno sofferto, diceva Oscar Wilde. E forse è la verità più amara di tutta questa storia è che la nostra società di adulti indaffarati e sempre giovani non è in grado di riconoscere un dolore e di proteggere chi ne avrebbe bisogno, anche solo per un po'. L'abbraccio più grande a Teresa Manes, una persona bellissima che sta in piedi e cammina in un mondo che l'ha tradita e del quale si continua a fidare. La prima volta termina qui. Grazie per essere stati con noi. Riascoltateci in podcast, cercate la nostra pagina sul sito di Radio 24. Lì trovate tutto, indirizzo Facebook e email. Buona domenica a tutti da Cristina Carpinelli. Questo inverno sarà breve, il coraggio magari.